Letture di Radio 24. Ci sono autori che riscrivono innumerevoli volte le proprie opere e altri che dopo averle scritte cercano di distruggerle. Ma cos'è che spinge uno scrittore a pentirsi di ciò che ha scritto? Mio padre mi diceva spesso: non bisogna mai correre dietro alle donne e alle ipotesi. Ne vengono sempre delle altre. A parte il maschilismo del primo assunto, per ciò che riguarda l'incessante avvicendarsi di ipotesi nella mente umana, invece, si può essere, penso, d'accordo. Qui vorrei fare un ragionamento che riguarda la destinazione di un'opera letteraria e del perché alcuni scrittori hanno avuto l'impulso di distruggere le opere scritte da loro. Scrivere non solo alla ricerca del successo immediato, dell'approvazione universale del momento, ma per scopi completamente diversi, può essere del tutto comprensibile, e quindi l'aver già scritto e non essere soddisfatti può anche trasformarsi in un tormento. Tolstoi ha fatto 9 stesure di Guerra e Pace. La moglie le ha tutte ricopiate a mano. Che eroina! Oh, che vittima! Quel libro è di 800 pagine. Tolstoi sicuramente non voleva prolungare fino all'ultimo istante di vita il suo lavoro. Tutt'altro. Voleva agire sulla coscienza dei suoi contemporanei. Aveva l'ambizione di migliorare l'essere umano. Per questo il suo libro doveva corrispondere perfettamente alle sue intenzioni. E così, dopo la prima versione ritrovata di recente, tutte le successive edizioni differivano una dall'altra e da quella originaria in qualcosa. Ma il caso di Kafka, per esempio, era senz'altro diverso. Stando a certi reperti, lettere, biglietti, Kafka era deciso ad annientare fino all'ultima pagina tutto ciò che aveva scritto. Com'è accaduto questo? Era malato, vicino alla morte. Ha pregato l'amico Max Brod di bruciare i manoscritti in suo possesso. Un rogo terribile. Perché voleva fare questo, quell'uomo così intelligente, che vedeva così lontano? Oltre allo scrupolo, all'insoddisfazione, ai dubbi, che cosa poteva rodere nella sua mente per indurlo a una tale decisione? Probabilmente Kafka era tormentato da uno dei moti interiori più imperiosi dell'ebraismo e anche del cristianesimo, dal senso di colpa, dalla vergogna. Scrivere può significare rendersi colpevoli, almeno per persone che sentano la responsabilità con quello scrupolo morale che poteva animare Kafka o anche, per dire, Flaubert. Tutto il Novecento europeo è pervaso da questo sentimento. Su esso è stato eretto l'enorme edificio della psicanalisi costruito da Sigmund Freud. Per una persona conscia di quale possa essere l'effetto di un libro sul pubblico, l'autoaccusa, il pentimento, il rimorso, la vergogna per la propria pochezza non sono cose lievi. Il caso di Kafka in questo ambito è uno dei più tragici. Ma resta comunque il mistero del perché non ha distrutto lui stesso i suoi manoscritti, finché era in condizioni di farlo. Perché all'apparenza, con viltà, ha dato questo compito a Max Brod, suo amico? Possibile risposta: non voleva sopravvivere alle proprie opere, cosa che può accadere solo a Dio. Ma c'è un altro scrupolo, il senso di colpa della società borghese, dove il padre, il portatore delle regole, regna su tutta la famiglia. Nel racconto La condanna, il figlio accetta di essere punito con la morte inflittagli dal padre ed esegue lui stesso la sentenza. Corre a scavalcare una spalletta e si getta nel fiume. Kafka, con il suo ebraismo meditato e sofferto, ha scelto per le proprie opere un boia, il suo migliore amico. Lo ha messo di fronte al dilemma se eseguire la condanna o contravvenire alla volontà del morente. Max Brod non ha bruciato i manoscritti. Privare l'umanità di quei capolavori, secondo Brod, sarebbe stato disonesto, dannoso, criminale. E lui non voleva commettere questo crimine. Ma anche l'esempio di non seguire il desiderio del moribondo è stato un malefatto. Ognuno valuti per sé il valore della soluzione adottata da Max Brod. Io personalmente non l'approvo. Ma a proposito di senso di colpa, non è questo che distingue l'uomo dall'animale? Il senso di colpa non esiste, per quello che sappiamo, tra gli animali. Questi uccidono, depredano, divorano seguendo l'istinto. Il senso di colpa ha invece salvato gli esseri umani, assicurando la persistenza della loro specie sulla Terra. Senza quel sentimento, la storia sarebbe stata soltanto un interminabile massacro e nient'altro. Per quello che riguarda la destinazione dei libri, vale la pena di citare il parere di Kafka. Se il libro che stiamo leggendo non ci sveglia come un pugno in testa, perché mai lo leggiamo? Perché ci rende felici? Mio Dio, saremmo felici lo stesso anche senza i libri, o i libri che ci rendono felici potremo all'occorrenza scriverli da soli. Un libro deve essere un'ascia per tagliare il mare di ghiaccio dell'indifferenza che c'è dentro di noi. Ma prendiamo altri due casi, tra i molti completamente differenti da quello di Kafka. Uno è quello di Gogol, che ha bruciato l'ultimo volume del romanzo in tre parti Le anime morte. E l'altro, quello di Arnold Schoenberg, che ha lasciato incompiuto il terzo atto del suo capolavoro, l'opera lirica Mosè e Aronne. Perché hanno agito così questi due artisti? Si possono fare soltanto congetture. Io ne azzardo una. Gogol ha bruciato il terzo volume, che doveva essere come il paradiso della Divina Commedia, perché non credeva che la Russia, il cui simbolo era per lui la famosa troica che corre nella pianura innevata, corresse verso il bene, verso il meglio. Non credeva più a un possibile paradiso, a un bene diffuso sulle sterminate steppe della sua terra. Che cosa possiamo dire oggi, guardando la storia della Russia di questo secolo? Quanto a Schoenberg, aveva finito il secondo atto della sua opera prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Dopo Auschwitz, un soggetto così solenne, con la fede stessa al centro di esso, non poteva essere completato che a costo di terribili, inumani dubbi e sofferenze. Schoenberg, secondo me, non aveva più la possibilità di sostenere questa lotta interiore per darsi una risposta soddisfacente alla domanda «Perché l'Eterno ha permesso questo?». Gli scrittori di oggi, per lo più, non hanno sensi di colpa. E questo la dice tutta su tanti bestseller dei nostri tempi. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Giorgio Pressburger dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. L'asservimento degli occidentali nei confronti dell'Islam ha toccato il fondo nei giorni scorsi, quando l'IKEA ha deciso di cancellare le donne dal catalogo destinato all'Arabia Saudita. Il tutto da un'azienda che solo l'anno scorso aveva diffuso una pubblicità con la foto di una coppia gay e con lo slogan «Siamo aperti a tutte le famiglie». La scenetta è quasi da Mulino Bianco. Una famigliola che di prima mattina si muove in un bagnetto super attrezzato, con mamma e figlio grande che si lavano i denti e il papà che asciuga il piccolino. Immagine innocente se non edificante da catalogo IKEA, che però non è piaciuta al mercato dell'Arabia Saudita, che ha preteso che la mammina in pigiama fosse cancellata dalla fotografia e solo così ha dato via libera al catalogo locale. Le donne là non devono lavorare, viaggiare o studiare senza il permesso dei padri o dei mariti e di guidare l'automobile non se ne parla. Meglio dunque addirittura non farle vedere proprio per non accendere spiriti e idee di destabilizzante indipendenza. Eliminata dunque con la gommina del Photoshop la mamma troppo occidentale. Sbianchettata, come si diceva un tempo a proposito delle fotografie staliniane, dove si voleva riscrivere la storia nel modo più gradito al potere di turno. Qui, più che di riscrivere la storia, si spera proprio di riuscire a tenerla fuori dai confini, impedendo che il vento del cambiamento arrivi anche attraverso un innocente quadretto di famiglia. Pecunia non olet, ma colpisce che l'IKEA, colosso del gusto medio occidentale in fatto di arredamento, abbia aderito alle richieste saudite, per quanto profondendosi in scuse ufficiali e promettendo di cambiare la sua politica aziendale verso i nuovi mercati, accettando di modificare il suo catalogo da 200 milioni di copie nel mondo, stampato in 62 versioni per lo più identiche, salvo piccole modifiche estetiche e di colore a seconda dei gusti dei vari paesi. Tanto più che proprio l'azienda svedese, con le sue pubblicità degli ultimi tempi, si era messa su una linea almeno apparentemente provocatoria o progressista, un po' alla Benetton. «Siamo aperti a tutte le famiglie», recitava un manifesto in cui si vedevano due uomini di spalle che si tenevano per mano mentre con l'altra reggevano il classico borsone di plastica gialla con manici in tela bluette. Ed era la campagna IKEA con cui a marzo 2011 l'azienda lanciava il nuovo negozio di Catania. Carlo Giovanardi aveva definito l'operazione offensiva e contro la Costituzione. E se giustamente in quel caso l'IKEA aveva badato poco alle rimostranze del sottosegretario, ribadendo di essere contro ogni discriminazione di razza, genere, religione, età o orientamento sessuale, come mai adesso si piega alla politica dei due pesi e due misure, facendo marcia indietro appena l'Arabia Saudita fa muro con i suoi pregiudizi? Perché procede a corrente alternata? Rigida a buon mercato con i paesi tolleranti dell'Occidente, fulmineamente prona di fronte agli urticanti oscurantismi che provengono dall'altro mondo? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Maria Luisa Agnese «In Arabia Saudita anche Ikea cancella le donne», dal Corriere della Sera del 2 ottobre.